A bordo campo di Dario Ricci. Obiettivo pubblico, manuale operativo. Questo il testo, ma direi anzi il progetto, l'idea, il laboratorio di idee che la Serie B ha messo in campo e ha messo su carta per studiare il rapporto tra il proprio campionato e la propria tifoseria e soprattutto per mettere a punto una sorta di laboratorio appunto per attirare i tifosi allo stadio. Mi è sembrato un esperimento particolarmente interessante perché mentre ai piani alti del nostro calcio il problema c'è, è ancora più evidente, ma poco si fa se non invocare nuovi stadi, nuovi impianti, nuove strutture per richiamare il pubblico allo stadio. La cadetteria scende decisamente in campo e lo fa partendo dalla cosa forse più scontata ma al tempo stesso meno ovvia, cioè le idee. E allora parliamo oggi proprio di questo manuale messo a punto dalla Serie B, obiettivo pubblico. I nostri ospiti, il presidente della Lega di Serie B Andrea Bodi, benvenuto a bordo campo presidente. Grazie, buongiorno a lei e a chi ci ascolta. E Roberto Ghiretti, titolare dell'omonimo studio di comunicazione che insieme alla Lega di Serie B ha messo a punto questo obiettivo pubblico, questo manuale di intervento. Benvenuto dottor Ghiretti. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, partiamo dal presidente Abodi. Presidente, per fortuna che vi siete posti il problema, no? Perché veniamo da giorni, da settimane in cui non si parla altro che del fatto che servono solo i nuovi impianti per poter richiamare le folle nei nostri stadi. Voi, che tra l'altro il problema dell'impiantistica lo state risolvendo in altro modo col progetto B Futura, siete partiti dalle idee. Mi sembra un approccio diverso e mio personalissimo parere un po' più costruttivo. Beh, intanto la ringrazio perché lei ha già dato qualche riferimento a tutto quello che stiamo facendo. Io non so se sia più costruttivo, diciamo che è quello più adatto anche al nostro contesto, poi se può essere utile anche al resto del contesto calcistico e sportivo in generale, tanto meglio. Noi riteniamo che si debba partire addirittura prima, non tanto dalle idee ma dall'ascolto e dall'analisi. E l'ascolto e l'analisi poi producono delle idee, poi possono essere buone o cattive, e soprattutto crediamo che sia importante elaborare un metodo di lavoro adeguato, perché se vogliamo raggiungere gli obiettivi, e gli obiettivi sono stadi che si riempiono in modo sicuro, è evidente che dobbiamo cercare di mettere in campo tutta una serie di ingredienti. Non a caso noi siamo partiti con il progetto B Futura, abbiamo proseguito con obiettivo pubblico, con tutti i suoi significati, ma lo abbiamo condito, questo nostro menù, con una ricerca di mercato, la nostra gente, che non è indifferente rispetto alle risposte che dobbiamo dare, perché anzi si parte proprio da lì, dalla conoscenza di quelli che sono i nostri riferimenti principali, cioè i tifosi, quelli che ci sono stati e se ne sono andati e quelli che dovranno, speriamo, venire anche in futuro, perché abbiamo bisogno anche di un naturale ricambio. Ecco, dottor Ghiretti, dice, entriamo un po' a sfogliare questo manuale, obiettivo pubblico. Ci sono tantissimi spunti per attirare appunto il tifoso sugli spalti. Provando a sintetizzare i tre punti cardine di questo laboratorio progetto, quali sono? Ma dunque, no, la circolazione diciamo è destinata ai manager e agli uffici delle squadre di Serie B. In questa logica, tra l'altro, insomma, stiamo facendo passare il concetto che non è solo il responsabile dei tifosi, il liaison officer, a vendere, a proporre, a promozionare, ma è tutta la società, dalla squadra, atleti, tecnici, giocatori, dirigenti di ogni tipo e natura. Insomma, è uno sforzo collettivo quello di andare verso la gente. Si parte da un'analisi di quello che è, e si arriva a una serie di definizioni, di cluster e di target che vanno poi considerati dai tifosi da andare appunto a trovare, giovanissimi, quindi mondi scolastici, oratoriani, famiglie, a tifosi fidelizzati ma da fidelizzare ancora di più, cioè da coinvolgere ancora più attivamente, a nuove fasce anche di pubblico. Insomma, di fatto per ognuna di queste categorie si sviscerano tutte le possibilità con cui si può lavorare e si portano poi idee conseguenti, con un'analisi attenta a quello che avviene negli altri paesi. Il cuore di queste idee, dottor Ghiretti, è lo stadio, inteso sia come punto di riferimento, ma anche come luogo che va vissuto in tutto e per tutto nei 7 giorni della settimana. Mi ha colpito ad esempio il fatto che non molti di noi ci pensano, ma lo stadio può essere anche luogo per convention aziendale, luogo per incontri con le scuole, luogo per avvicinare giovani sportivi all'attività sportiva di base. Perché noi in Italia facciamo così fatica a interpretarlo non tanto come una chiesa, un luogo sacro dove celebrare la partita, ma come un luogo dove invece entrare quotidianamente per prendersi e godersi un'ora del proprio tempo libero? Questo credo che sia figlio di una mentalità in qualche modo superata dai fatti. Dall'altra parte, secondo me, però serve anche poi creare la proposta, perché non è così automatico tutto, quindi le situazioni vanno proposte, vanno rese funzionali, vanno promozionate, vanno rese poi competitive rispetto ad altre location. Certamente che lo stadio è un contenitore polifunzionale, aperto e anche chiuso per alcuni aspetti, per le parti più ridotte, che è parte integrante di una città, quindi in qualche modo è sicuramente assolutamente funzionale a questo. Il problema è proporlo. Ecco, Presidente Abodi, a proposito di proposte, mi colpivano molte quelle, ad esempio, contenute in questo estratto di Obiettivo Pubblico rivolte alle scuole. C'è l'iniziativa Giornalista per un giorno, gli incontri con gli atleti, le lezioni di lingua con gli stranieri, che ormai spesso sono anche protagonisti in campo in B, quindi perché non approfittare di queste opportunità per far incontrare giovanissimi studenti adoranti dei vostri campioni con gli stessi campioni che arrivano da paesi stranieri. Insomma, volendo, se uno si ferma intorno al tavolino qualche idea viene, no, Presidente? No, c'è solo l'imbarazzo di mettere ordine alle idee, perché ce ne sono tantissime. A queste aggiungiamo per esempio la conoscenza delle regole del gioco del calcio, che non è un dato marginale. Ecco, partiamo dal fuorigioco magari. Che... anche quelle, tant'è che per la prima volta abbiamo pensato di coinvolgere nei programmi scolastici anche gli arbitri, che devono recuperare una loro dimensione anche nobile al di sopra delle parti, proprio promuovendo la cultura della conoscenza delle regole e poi del rispetto delle regole stesse. Credo che questo sforzo collettivo che stiamo facendo come associazione, sulla spinta e su richiesta anche delle nostre 22 società, sia finalizzato proprio a mettere in campo, tenendo conto delle differenze che ci sono nel nostro territorio e facendole diventare queste differenze un aspetto positivo, mettere in campo un'azione che non sia delle singole realtà. La differenza che c'è tra la Lega di B e la Lega di A è che la Lega di A è la somma di tante realtà che hanno storie diverse, che competono anche a livelli diversi. Basti pensare che un terzo delle squadre di A poi giocano anche a livello internazionale. E noi abbiamo un quadro più uniforme, comunque una Lega più omogenea, più armonica, e questa possibilità che ci offrono le società di collaborare, vogliono collaborare, io sono convinto che porterà da una parte a riqualificare le nostre infrastrutture materiali e quindi migliorare i nostri stadi, perché è certamente un presupposto, dall'altra a conoscere sempre meglio e anche per nome e cognome i nostri tifosi più di quanto si sappia fino ad oggi, e dall'altra ancora a formare i dirigenti che devono poter interagire con i nostri tifosi per produrre l'effetto che è l'unico effetto che per noi è motivo di soddisfazione, gli stadi che si riempiono, come ho detto poco fa. Che le cose poi possano cambiare lo dimostra proprio la Serie B, no, Presidente? Si ricorda quando fino a poche stagioni fa si discuteva di questo trasloco al sabato come il fumo negli occhi, la fine del calcio della Serie B, la sovrapposizione con i mercati rionali che sarebbero morti? Mi sembra che non è successo niente di tutto questo, anzi. Dopo un primo assestamento, adesso abbiamo conquistato il sabato, che prima era il sabato del villaggio, adesso è il sabato della B, è caratterizzante la nostra competizione, le nostre città non soffrono più di questo appuntamento, anzi speriamo che il nostro appuntamento calcistico entri sempre più in armonia, in empatia con il territorio e che soprattutto noi si riesca a parlare di calcio in una dimensione umana. nel rispetto di tutto quello che avviene nel territorio e potendo metterci a fattor comune con quello che il territorio esprime dal punto di vista sociale, economico, industriale, paesaggistico. C'è un progetto che lanceremo nelle prossime settimane che abbiamo denominato non a caso B-Italia, bella e buona, che è proprio questa chiave di lettura di un calcio che si gioca il sabato ma che nel corso della settimana comunque interagisce con gli altri fattori che caratterizzano le nostre realtà. Roberto Ghiretti, stiamo discutendo di idee che il calcio italiano deve saper per forza mettere a frutto, laddove invece all'estero molte di queste sono già realtà, no? In una tabellina del mio abstract vedo i numeri, il confronto fra i numeri di Italia e Germania a livello di Serie B e vedo che in Germania l'incasso totale da botteghino è circa 85 milioni di euro a stagione, il numero di spettatori oltre 5 milioni e noi su per giù siamo a un quarto dei ricavi e poco meno della metà di spettatori, insomma gli altri sono come sempre purtroppo e noi già avanti. Ma diciamo sì che sono avanti fra Germania e Inghilterra, ma che anche Spagna e Francia in qualche modo ci sorpassano. Il problema è un altro, io credo è un cambio culturale importante, cioè con queste cose con tutta la progettualità diciamo che sta mettendo in campo la Lega B si crea comunque un cambio culturale, si crea comunque una disponibilità di idee e di metodi che sono sicuramente utili per giocare una partita che non è certo di inferiorità ma che consente di andare a potenzialmente scalzarli, almeno la terza e la quarta. Il problema è un altro, il concetto dello stadio pieno, cioè lo stadio pieno, lo stadio con il pubblico, e questo senza regalare biglietti a nessuno, perché nessuno nel manuale non si parla mai di regalare biglietti, il concetto dello stadio pieno poi riverbera su tutto quello che è la funzione di una società di calcio per la propria città, cioè vuol dire che se c'è lo stadio pieno aumenta la credibilità, aumenta l'interesse mediatico, aumenta l'interesse della collettività, aumentano gli incassi e quindi probabilmente il concetto è da una parte uscire dalla logica delle curve come, no, come logica conseguenza ineluttabile, dall'altra invece creare le condizioni di un pubblico sempre più partecipe, voluto, coinvolto e soprattutto appassionato, che consenta peraltro una piena, come si può dire, credibilità della società sportiva territoriale e che la porti a essere anche economicamente poi conseguentemente riconosciuta. E allora questi gli obiettivi ambiziosi della Serie B attraverso obiettivo pubblico, l'in bocca al lupo e d'obbligo. A noi è piaciuto parecchio perché è un manualetto che dimostra che se uno vuole le cose e lo stato attuale dell'arte può cambiare. In bocca al lupo alla Serie B, al suo presidente Andrea Bodi. Grazie. E a Roberto Ghiretti, titolare appunto dello studio che insieme alla Lega di Serie B ha curato Obiettivo Pubblico. Grazie e buon ascolto a tutti. A bordo campo. Olimpiadi invernali di Sochi 2014 ormai alle porte, lo sapete bene. Ebbene, proprio le Olimpiadi invernali che stanno per arrivare sono un ottimo pretesto per parlare oggi a bordo campo di un libro davvero interessante, edito da Zanichelli, Sportivi ad alta tecnologia, la scienza che aiuta a costruire i campioni. Scritto da Nunzio Lanotte e Sophie Lem. Sono delle paginette, quasi 200, davvero interessanti, che ci aiutano a capire ancora meglio il rapporto sempre dibattuto e sempre dinamico tra sport e tecnologia, e particolare interesse proprio nell'ottica delle Olimpiadi di Sochi, visto che sci, slittino, pattinaggio su ghiaccio sono sicuramente tra gli sport che più attingono alla tecnologia per lavorare sulle prestazioni degli atleti, sulle loro performance. E allora, nostro ospite è uno dei due autori di Sportivi ad alta tecnologia, Nunzio Lanotte, laureato in ingegneria meccanica con indirizzo robotica a Roma, collaboratore e consulente del CONI, del Comitato Olimpico Nazionale. Benvenuto, dottor Lanotte. Buonasera a tutti voi e ai vostri ascoltatori. Allora, dottor Lanotte, sportivi ad alta tecnologia, direi che avete messo il dito nella piaga, no? Perché tema quanto mai dibattuto, quello del rapporto tra sport e tecnologia, laddove l'evoluzione dei materiali della ricerca è in continuo progresso e si discute sempre di quanto questo cambi e influenzi sulla prestazione del singolo atleta, no? Beh, certamente sì, diciamo la tecnologia ha un suo ruolo nella prestazione dell'atleta, un ruolo che certamente non va sopravvalutato, nel senso che prima di tutto ci vuole il talento dell'atleta, ci vuole un bravo allenatore, ci vuole un tanto allenamento soprattutto, però diciamo agli alti livelli e specialmente in sport come quelli che lei ha citato, cioè lo sci, lo slittino, il bob, il pattinaggio, certamente i materiali in generale, la tecnologia hanno un loro ruolo. Se pensiamo allo slittino, si cronometra addirittura al millesimo di secondo, quindi immaginiamoci che piccole differenze ci siano tra un atleta e l'altro, quindi qualunque aiuto che la tecnologia possa dare è benvenuto. Non a caso puntiamo forte proprio a Sochi su quell'Armin Zögler che inseguirà la sesta medaglia olimpica consecutiva e poi su quel giovanissimo talento Fischnaller che già è stato ospite qui a Bordo Campo. Beh, devo dire che in quel caso poi tecnologia e sapienza manuale si mescolano, perché Zögler è uno che con lo slittino praticamente quasi ci va anche a dormire, so che ha un suo box, un suo garage dove lavora con cura su scioline e lamine, ma appunto ad esempio la ricerca sulle scioline è quanto di più avanzato possa esserci nel mondo dello sport, vero dottor Lanotte? Senz'altro, la ricerca sulle scioline è proprio uno dei settori d'avanguardia della tecnologia applicata allo sport, e si è passati, diciamo, la sciolinatura è una vecchia pratica, se vogliamo, che all'inizio veniva fatta con metodi alquanto artigianali, si sciolinava col miele, con la pece, con i copertoni d'auto fusi, con i dischi in vinile fusi, però diciamo superata questa fase pionieristica, adesso dietro le scioline, che poi sono molto diverse, ce ne sono di infiniti tipi per tutti i tipi di neve e sono diverse quelle per il fondo, per lo sci di fondo e lo sci da discesa. Dicevamo che dietro ogni sciolina c'è una ricerca chimica, in particolare sono materiali che appartengono alla famiglia degli idrocarburi, dei fluorocarburi, ultimamente li utilizzano anche delle nanotecnologie per ottenere delle prestazioni migliori. Con il tema scioline ci siamo spostati dallo slittino proprio allo sci. Interessanti le pagine di sportivi ad alta tecnologia che voi dedicate allo studio della biomeccanica, no? Del movimento che fanno ad esempio gli sciatori, perché anche quello attraverso i software ormai a disposizione è scomponibile, analizzabile e diventa strumento prezioso per atleti ed allenatori per correggere difetti di impostazione che fa perdere centesimi poi decisivi. È evidente che lo sport ad alto livello implica una ricerca della perfezione in ogni gesto, basti pensare, non so, ai tuffatori, lì è veramente un dito fuori posto, un piede fuori posto può far perdere una medaglia. E quindi questi software di analisi biomeccanica che consentono di misurare tutte le distanze, gli angoli, le inclinazioni, e naturalmente abbinati anche con dei sensori, per esempio con degli accelerometri oppure dei velocimetri, possono dare delle indicazioni che sono davvero, davvero utili. Beh, spazio ampio e non poteva essere altrimenti anche il dio pallone, no? Il calcio, che è sport che sta diventando sempre più tecnologico, pensiamo solo a scarpini e palloni. C'è una citazione che dà il senso, no, di questo braccio di ferro tra sport e tecnologia. Io le mie squadre le dispongo benissimo sul campo, Il problema è che quando inizia la partita i giocatori si muovono. Citazione di Alfio Basile, che direi sintetizza al meglio questo duello continuo. Dottor Lanotte, ci tolga subito una curiosità. Si avvicinano i mondiali del Brasile. Che pallone ci ritroveremo tra i piedi o tra le mani, o meglio, quei campioni si ritroveranno tra i piedi o tra le mani? Dovranno tribolare i portieri come accadde con lo Jabulani in Sudafrica, anche col nuovo pallone dei mondiali? L'avete già studiato? L'avete analizzato? No, devo dire di no. L'ho sentito nominare anche un nome strano, però non l'ho ancora né visto né ho letto qualcosa sulle sue prestazioni veramente. Allora bisogna. Ricordo che era il pallone degli ultimi mondiali e che ha suscitato molte perplessità da parte dei giocatori e soprattutto dei portieri. Perché diciamo che assumeva delle traiettorie molto strane, curvava oppure cambiava di altezza repentinamente, e questo era dovuto al fatto che il produttore, nello sforzo di fare un pallone sempre più sferico, sempre più perfetto, aveva tolto tutte le cuciture, praticamente, o quasi tutte le cuciture, e le cuciture sono quelle che danno un effetto particolare, che ha la funzione un po' di stabilizzare la traiettoria del pallone, quindi una sfera completamente liscia a delle traiettorie più imprevedibili. Adesso vedremo questo nuovo pallone che caratteristiche avrà, insomma. Quindi insomma non li fate perfetti questi palloni, questo è il suggerimento, non li fate proprio tondi, perché l'imperfezione è quella che poi produce il gioco e il divertimento. Senta, sempre rimanendo nel campo da calcio, ampio spazio lo dedicate anche a quelli che sono i sistemi di cosiddetta match analysis, cioè tutte quelle telecamere che circondano il campo e che ci permettono poi di avere dei dati che solamente fino a qualche anno fa erano impensabili rispetto alla prestazione del singolo giocatore: chilometri fatti, passaggi giusti, passaggi sbagliati, falli laterali, tutte le volte che ha bevuto, insomma, quasi ormai sia troppo, Esattamente, la citazione che lei ha appena riferito infatti era proprio a proposito di questo, cioè che non basta avere uno schema che funziona sulla carta, perché il calcio è uno sport di situazione, quindi la partita assume un aspetto inaspettato, insomma, man mano che si gioca, e questi software sia in tempo reale ma soprattutto poi a posteriori vengono salvati su DVD e poi vengono analizzati, fanno capire esattamente una squadra se gioca sulle fasce, se gioca verso il centro, quanti chilometri percorre ogni giocatore, quale parte del campo copre, insomma una miniera di informazioni che poi naturalmente gli allenatori con i loro collaboratori mettono a frutto per scegliere la tattica migliore. Uno sguardo allo sport di domani è l'epilogo di Sportivi ad Alta Tecnologia. Dottor Lanotte, provando a sintetizzare, quale sarà la prossima generazione del rapporto tra sport e tecnologia? Cosa dobbiamo aspettarci? Ci sono diversi filoni interessanti. Uno è quello della miniaturizzazione progressiva dei componenti elettronici e avere batterie più potenti, eccetera. Io credo che questo prima o poi porterà ad avere addirittura, credo, anche obbligatori addosso agli atleti dei sistemi di monitoraggio delle loro condizioni fisiche, per evitare anche fenomeni tipo collasso cardiaco, ipertermia, ipoglicemia, insomma delle crisi che possono sopravvenire durante la fatica, durante la prestazione. E poi c'è tutto il settore dei nuovi materiali, che veramente sono impressionanti, quindi avremo immagino dei telai, delle racchette, delle canoe sempre più leggere, sempre più rigide, eccetera, e contemporaneamente avremo anche tutti questi nuovi materiali di tipo gel, fluidi non newtoniani si chiamano anche tecnicamente, che sono protettivi, quindi per la protezione dei motociclisti ad esempio, della gente, delle persone che vanno a cavallo. Poi c'è tutto il settore delle nanotecnologie, anche per esempio nelle scioline, quindi insomma del demand non v'è certezza, però penso che ne vedremo di molto interessanti. Allora intanto ci leggiamo Sportivi dispositivi ad alta tecnologia, la scienza che aiuta a costruire i campioni, edito da Zanichelli e realizzato da Sophie Lem e Nunzio Lanotte. Direi che, dottor Lanotte, ringraziandola per essere stato nostro ospite, da quello che ci ha detto, la seconda edizione è già quasi pronta, no? Perché c'è ancora tanto, tanto da raccontare. Certo, sì. La tecnologia non si ferma mai, quindi non ci dobbiamo fermare mai neanche noi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Pietro Lacorte in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo. Ora spazio a tutti i convocati weekend. L'appuntamento con A Bordo Campo è per domenica prossima alle 16.30 e ogni sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.